perfetto giorno di Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e benvenuti in questa serie di puntate speciali di Effetto Giorno che stiamo realizzando, tornando su alcune delle storie dell'anno, su alcune delle notizie dell'anno. Andremo ad approfondire, a vedere che cosa è successo in alcuni casi dei quali ci siamo occupati. Uno di questi casi sicuramente è che una storia che ormai ha un anno e un mese circa. È il primo dicembre del 2013 e la vicenda colpisce tutti, nonostante riguardi dei cittadini stranieri che vivono in Italia. È il famoso rogo di Prato. Dentro una fabbrica dormitorio, il primo dicembre del 2013, muoiono 7 persone a causa di un rogo. La descrizione migliore della situazione, la descrizione forse più interessante della situazione, di quello che si trova a Prato, la fa esattamente il presidente della regione, Rossi. Partiamo proprio da questa voce. Ce l'abbiamo un po' sulla coscienza tutti e che bisogna cominciare a vedere questa realtà per quello che è. Noi siamo in presenza della più grande concentrazione di lavoro sommerso che esiste nel centro-nord del paese, probabilmente dell'Europa. La più grande centrale di lavoro sommerso del centro-nord e forse d'Europa. Ed è di questo che vogliamo parlare con Alessandro Fabrizi, segretario della CGIL di Prato. Buongiorno e benvenuto Fabrizi. Buongiorno. Paolo Crocetta, che è titolare di un'azienda, la Cunningham, un'azienda di Prato. Buongiorno Crocetta e benvenuto. Buongiorno. E Renzo Berti, che è coordinatore del progetto Lavoro Sicuro a Prato, che è un progetto proprio della regione. Buongiorno anche a lei, Berti. Buongiorno. Inizierei da Fabrizi. Le parole di Rossi le ha sentite, probabilmente le ricorda, le conosceva. Quella è una realtà che voi praticate quotidianamente in quanto sindacalisti, anche solo per il fatto che lei vive là, immagino, insomma. Io vorrei capire se in questo anno, a fronte di quella situazione descritta al presidente della regione, passi avanti ne ha visti e soprattutto di che dimensione sono questi passi avanti, perché in un'immagine molto efficace usata nei giorni scorsi da Dario Di Vico sul Corriere della Sera, un po' come svuotare il mare con un cucchiaino. Prego Fabrizi. Sì, in effetti è così, per quanto poi sottoscritto abbia anche polemizzato con lo stesso Di Vico in passato quando è venuto a Prato. Considerato un po' questa, come dire, questa attitudine a puntare l'indice quando si parla di responsabilità anche nei confronti delle organizzazioni sindacali, omettendo che poi, come lei diceva nella presentazione, noi ci muoviamo quotidianamente in questa galassia, in questo universo, e rimane una galassia per molti versi impenetrabile al netto di quello che si è verificato nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, cioè senz'altro di un primo dicembre del 2013 ha rappresentato un punto di svolta sul piano delle coscienze, di un esercizio di responsabilità. Rimane una difficoltà che è soprattutto una difficoltà difficile da aggredire sotto il profilo culturale. Quella cinese purtroppo rimane un'entità non così permeabile. Ci sono dei segnali, ci sono dei sintomi che dimostrano che nulla è impossibile, senz'altro, ma è un lavoro lento, graduale, che per essere incisivo, ma soprattutto per arrivare a quella che è la dimensione del fenomeno da rimuovere, richiederà tempo e costanza. Senta Fabrizi, lei ha messo un punto su un nodo polemico che vi ha riguardato, no? Perché all'indomani di quello stesso rogo è un ragionamento che si fece parecchio. Quanto i sindacati non hanno saputo vedere e cogliere questa situazione, al netto del ragionamento sull'impenetrabilità dell'ambiente cinese che è indubitabile? No, guardi, non c'è assolutamente miopia da parte del sindacato. Io, per quanto mi sia guardato bene dall'entrare in quel vortice di polemiche che si è generato all'indomani della tragedia, ho detto che noi abbiamo, come dire, prove documentali degli allarmi, delle denunce che abbiamo fatto ancora prima, quindi in stagioni non sospette. Potrei recuperare l'azione della fine degli inizio degli anni 80, della fine degli anni 90, in cui dicevamo che c'era questa comunità che si stava, come dire, sviluppando, che stava crescendo, che a differenza di altre presenze straniere presentava delle peculiarità. Non c'è una responsabilità sindacale, perché ancora oggi, ve ne potrà dare testimonianza lo stesso Berti, non è che troviamo dei tappeti rossi e il colore non è casuale ad accoglierci nelle aziende cinesi, tutt'altro, continua ad esserci un'omertà, continua ad esserci una condizione culturale cristallizzata per cui gli stessi lavoratori, che continuano ad essere, come dire, merce preziosa per lo sfruttamento e per alimentare quel sistema criminale, accettano in qualche misura, perché dentro a quell'evoluzione rispetto alla possibilità di crescere socialmente c'è una passiva accettazione, come sotto il profilo sociologico è stato ampiamente detto, e questa è la condizione più difficoltosa da rimuovere. La responsabilità del sindacato forse è stata quella di non urlare abbastanza, di non sensibilizzare abbastanza le istituzioni, questa è una responsabilità, non altra, perché l'affermazione del diritto purtroppo è un esercizio che facciamo quotidianamente. Guarda, le cito solo l'ultimo caso di quanti ne abbiamo registrati anche negli ultimi giorni. Un lavoratore che è stato malmenato dal proprio Lauban, che però naturalmente si è guardato bene dal denunciare, per quanto attraverso dei mediatori noi abbiamo provato a convincerlo a denunciare, ma trattandosi di un clandestino naturalmente continua a permanere quella condizione di reticenza, di difficoltà, perché sa perfettamente che spesso non trova quella condizione di tutela, di garanzia necessaria di fronte a questa condizione generale. E forse probabilmente non sa nemmeno esattamente quali sono i suoi diritti, questo è un elemento che probabilmente conta. Tra poco arriveremo a Paolo Crocetta, per certi versi l'altro lato, o almeno tradizionalmente l'altro lato, sia l'imprenditore, perché secondo noi ha una bella storia da raccontare, come dire, di ricerca di una sistemazione di questa situazione che vada al di là della repressione pura. Però voglio andare prima da Renzo Berti, che è coordinatore del progetto Lavoro Sicuro a Prato, per capire un po' come si stanno muovendo da una parte, e dall'altra parte capire quanto è vero il resto, ossia quante storie abbiamo letto in questi mesi, in queste settimane, di aziende o di capannoni che vengono chiusi e di situazioni che si ripresentano identiche, magari con gli stessi titolari a poche centinaia di metri di distanza, nel giro di pochi mesi, se non addirittura di poche settimane, se non addirittura di pochi giorni. Allora Berti, voglio però iniziare dai numeri, e quindi dal lato più puramente repressivo, quindi dei controlli e delle verifiche. Ci può dare un quadro di quello che è stato fatto da quando è partito il progetto Lavoro Sicuro a Prato e quando è partito innanzitutto? Prego. Ma devo dire che in questo caso la Regione ha reagito tempestivamente proprio all'indomani della tragedia, con le parole che sono state ricordate all'inizio della trasmissione, e che si sono trasformate rapidamente in atti amministrativi e poi in fatti. Sì. Perché il progetto è stato varato con una delibera del gennaio del 2014, con la quale si finanziavano le possibilità di assunzione di 74 nuovi tecnici della prevenzione che sono entrati negli organici delle 4 aziende sanitarie locali, si finanziava una somma importante per il reclutamento di mediatori linguistici e culturali, sì, i dispositivi necessari allo svolgimento dei controlli, insomma la macchina è partita, abbiamo assunto, sì, queste persone che sono venute un po' da tutta Italia, le abbiamo formate, si tratta di persone laureate nella disciplina specifica, che hanno ottenuto, stanno ottenendo la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. E questo, mi scusi Berti, questo dal lato della macchina, va bene, cioè, non mettiamo in dubbio che io capisco che questa sia un'epoca particolare, quindi quando si fanno assunzioni nella pubblica amministrazione si tiene sempre a specificare quali qualifiche abbiano, che qualità e che tipo di assunzioni siano, però la voglio sulla palla, sui numeri appunto. E volevo dire che sono controlli qualificati, ecco, la storia serviva a dimostrare questo. Perfetto. Sono partiti dal primo di settembre scorso, abbiamo fatto proprio ieri il bilancio dei primi 3 mesi di attività in 3 mesi 860 controlli su un insieme di 7.700 aziende censite, quindi siamo ancora all'inizio di un percorso che sarà quantomeno triennale, perché questa è la durata del piano straordinario. Ne sono risultate situazioni variegate, perché una percentuale significativa di queste aziende per fortuna è risultata in regola, si parla di circa, diciamo, un 30%, c'è poi una quota altrettanto importante, minoritaria ma significativa, di aziende che sono state chiuse perché gravemente carenti, e siamo intorno al 10%, e poi c'è la percentuale più rilevante, oltre il 50%, di aziende che hanno avuto prescrizioni, cioè note con dei tempi di adeguamento, ma che possono continuare a restare aperte laddove poi queste prescrizioni vengano svolte, e informative di reato che sono più o meno corrispondenti alle prescrizioni. Questi sono i dati sostanziali. Ascolti Berti, quanto avviene questo meccanismo dello svuotamento del mare con il cucchiaino? Cioè nel momento nel quale uno fa il controllo, chiude una fabbrica e come dire, lo stesso titolare magari tramite dei prestanome apre un'altra fabbrica dormitorio a qualche centinaio di metri di distanza. Avviene, non avviene? Quanto siete in grado di controllarlo? La diversità di questa vicenda non è soltanto data dai numeri e dalle quantità dei controlli che saranno dispiegati, ma anche dalla qualità, perché noi non facciamo controlli spot, non lavoriamo per spettacolarizzarne i risultati, ma lavoriamo sulla base di programmi che hanno ad esempio tra i criteri per la selezione delle priorità di intervento proprio le nuove aperture, perché sapevamo, insomma, di questa piaga delle, diciamo, nuove aperture che in realtà sono il riciclaggio di vecchie esperienze, ma andiamo subito a controllare chi apre ex novo, e questo ha arginato, diciamo, questo tipo di atteggiamento. Benissimo. Paolo Crocetta, titolare dell'azienda Cunningham di Prato. Io già prevengo le osservazioni degli ascoltatori, non è per assolvere chi sta svolgendo questo lavoro, prevengo le osservazioni degli ascoltatori che ci scrivono da Prato e ci dicono guardate che la situazione è sempre la stessa. Signori, date anche tempo a che le cose succedano. Come avete sentito, è un piano triennale. Vedremo che cosa succederà. Staremo dietro a questa vicenda come siamo stati dietro ad altre. Allora, Paolo Crocetta, la sua azienda è la Cunningham e voi avete varato una sorta di progetto di emersione tutto vostro. Ci spiega come funziona? Questo progetto è nato prima del rogo del 2013, è nato già da 2 anni. Noi produciamo abbigliamento per vari marchi della moda, europei, italiani, europei. E già diversi anni fa entrammo in contatto con un gruppo che ci chiedeva, con un gruppo d'acquisto che ci chiedeva delle certificazioni. Noi avevamo già avviato un processo di emersione dei nostri cinesi, dei nostri laboratori, e su richiesta di questo grosso cliente, per soddisfare le sue esigenze di certificazione, abbiamo avviato un processo più profondo di emersione dei nostri cinesi, quindi li abbiamo tutorati, li abbiamo accompagnati in un processo di regolarizzazione dell'attività. In sostanza Crocetta, voi non lavorate con aziende che non siano a norma? Noi non lavoriamo con aziende che non siano a norma, e quando scopriamo che uno dei nostri cinesi, dei nostri laboratori, fa delle attività che non rientrano nel nostro standard di sicurezza, noi lo invitiamo a regolarizzarsi, perché non ci possiamo permettere, noi italiani, ma nessuno si può permettere, di avere dei terzisti che abbiano uno standard di sicurezza o di lavoro diverso da quello dei nostri lavoratori dipendenti. Quindi c'è un difetto da questo punto di vista, Crocetta, da parte dei suoi colleghi imprenditori, forse? Non tutti si muovono nella stessa maniera? Allora, si dovrebbe distinguere quello che è nel distretto, tra il distretto italiano e il distretto cinese. Nel distretto italiano ci sono tanti imprenditori che fanno il nostro stesso lavoro, che hanno fatto questo processo come noi già da qualche anno, perché gli italiani ovviamente hanno capito che non si poteva tollerare e sopportare un sistema di lavoro come quello che poi abbiamo scoperto così diffuso. Mentre l'altro distretto, quello che viene definito parallelo, che purtroppo esiste, è un distretto che lavora chiuso, è un distretto che lavora, noi lo definiamo cinesi su cinesi, e lì non veramente vediamo, ci sono delle difficoltà a favorire questa emersione. E là evidentemente funziona quasi solo la repressione. Ringrazio tutti, Alessandro Fabrizi, segretario della CGIL di Prato, Paolo Crocetta della Cunningham, l'ultima persona che abbiamo sentito è Renzo Berti, coordinatore del progetto Lavoro Sicuro a Prato della Regione Toscana. Speriamo di aver dato un quadro agli ascoltatori su quello che sta succedendo in questo momento, a circa un anno di distanza dalla tragedia e da quel rogo che uccise 7 operai. Naturalmente continueremo, come abbiamo detto, a tenere sott'occhio la vicenda. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, e come vi stiamo dicendo e raccontando in questi giorni, è anche l'occasione, questo periodo di pausa della diretta della trasmissione, questo periodo nel quale, insomma, come avete sentito nel sottotitolo, non ci sono più le notizie in 60 minuti, per tornare su qualche argomento di approfondimento anche trattato dai nostri colleghi, dai colleghi della redazione, all'interno delle loro trasmissioni che generalmente vanno in onda nel fine settimana. Adesso noi ci vogliamo occupare, partendo da storiaccia della nostra Raffaella Calandra, di una vicenda molto particolare, se volete di un dibattito infinito. Da tanto tempo, no? C'è questo dibattito per cui qualcuno ritiene che alcuni prodotti mediatici in genere, tra cui per esempio la musica, i videogiochi oppure alcuni film, possano stimolare alla violenza o a qualche forma di emulazione. Io personalmente, ve lo dico, sono piuttosto perplesso su questa interpretazione, perché probabilmente ci vogliono già delle basi perché qualche episodio di violenza si verifichi. Eppure qualcosa succede. Si è parlato spesso appunto dei videogiochi, si è parlato del rock ormai fin troppo tempo fa, si è parlato del rock satanico. Ebbene, sta succedendo qualcosa a proposito della famosa saga di Twilight e dei suoi cloni, ossia il tema è che ci sono dei giovani che si stanno avvicinando, a causa di queste saghe che sono sia letterarie, ossia sia sul libro sia su film, si stanno avvicinando al mondo del vampirismo, cioè ci sono delle nuove forme di sette. Come si diceva, se ne è occupata la nostra Raffaella Calandra nella sua trasmissione Storiacce, e Raffaella in studio con noi. Raffaella. Ciao Simone, ciao a te e ai nostri ascoltatori. È proprio la domanda che mi sono fatta quando ho deciso di avventurarmi, diciamo, nella trasmissione in questo argomento, anche con qualche scetticismo iniziale, però in realtà quello che è venuto fuori è che c'è un richiamo, una suggestione molto forte nei confronti di questo vampirismo, che non è più soltanto un bestseller internazionale, una serie di successo. In qualche modo in realtà i vampiri sono entrati anche nella realtà e questo è diventato un problema preoccupante, perché ci sono stati dei episodi di cronaca che meritano di essere approfonditi. Ecco, c'è un caso nello specifico, no? In Veneto c'è stato il caso del gestore di una discoteca del litorale veneto che ha indotto 4 ragazzi, 2 dei quali minorenni, a bere del suo sangue nei bicchierini di plastica. Immaginiamo ovviamente, anche tanto per cominciare, i pericoli per la salute, oltre all'orrore del gesto in sé. Questo è considerato l'apice di un fenomeno, quello del vampirismo, che sta portando ad un aumento di riti di affiliazione di vario genere, di sacrifici di animali, tant'è vero che ci sono delle denunce sull'aumento di furti di animali che si pensa possono essere anche utilizzati per sacrifici. E soprattutto c'è il dato preoccupante di ragazzini, perché per lo più si tratta di adolescenti o comunque dei minorenni, che rischiano di essere manipolate da persone che invece sono adulte e che casomai li possono indurre per ora a compiere, diciamo, gesti preoccupanti. Non si è arrivati a casi clamorosi, però li ricordiamo tutti quanti molto bene, e il fantasma è quello del passato, dalle bestie di Satana, dove ci sono stati anche 2 delitti, ai casi dei bambini di Satana, quelli di Dimitri a Bologna. Infatti io, tra le varie persone che ho sentito anche il papà di una delle vittime delle bestie di Satana, Michele Tollis, il padre di Fabio Tollis, che riprendeva proprio il discorso che facevi tu, cioè il legame dell'influenza anche della musica, in quel caso era la musica heavy metal che era messa sul banco degli imputati, per aver in qualche modo indotto, avvicinato anche il figlio ad un certo mondo. Evidentemente non è la causa, ma è una componente di quel mondo. In questo caso invece si tratta della fascinazione derivante da saghe come Twilight nei confronti di ragazzi che quindi si avvicinano a questo mondo del vampirismo e delle sette sataniche. Quante sono queste sette, o quantomeno quante sono quelle più pericolose, Raffaella? Un'ottantina li stimano qui gli osservatori, diciamo, gli studiosi di questo mondo dell'occulto. Allora, tra questi studiosi del mondo dell'occulto, o meglio del mondo dell'occulto, del mondo che cerca l'occulto, c'è Giuseppe Bisetto, che guida il gruppo di ricerca sulle sette, Igris. Sentiamo cosa ti ha raccontato. C'è una variante del satanismo che è il vampirismo. Quanto è diffuso nella zona che voi monitorate di più, che è quella del Veneto? Sappiamo che sono esistiti episodi di questo tipo, quali ad esempio all'interno di alcune discoteche, non molte, tre, ecco, ma se l'episodio accade in distanze diverse, in luoghi diversi, vuol dire che è diventata un'abitudine, una moda. Certo. Ecco, la cosa più terribile è successa proprio qui nel cuore del Veneto, nell'Adriatico, una località nota balneare in Adriatico, in una discoteca. Proprio il proprietario, il gestore, perlomeno il gestore della discoteca, avrebbe invitato dei giovani e giovanissimi a legarsi a lui attraverso un rito vampiristico, promettendo appunto tutte le energie che hanno i vampiri. Lei sa che oggi c'è tutta una cinematografia che parla di un vampirismo buono, non solo di un vampirismo cattivo. Assolutamente sì, e quello spesso viene considerato un po' come l'origine di questa diffusione, di questa tendenza, di questa moda. È avvenuto in una discoteca della Riviera Adriatica e alla fine di una serata molto calda, ecco, sarebbero stati fatti oggetto questi giovani di invito di bere su un bicchierino di plastica il sangue di questo gestore, proprio per unirsi alla setta vampiristica che lui avrebbe fondato. Lei capisce l'atrocità di questo gesto. E grazie alla nostra Raffaella Calandra, che troveremo anche nei prossimi giorni con altre storie. Noi torniamo ad occuparci adesso di Roma e di Mafia Capitale, dell'inchiesta che ha riguardato Roma. Ebbene, la cosa che ha colpito tutti all'inizio di questa vicenda sono state le intercettazioni nelle quali si parlava di questo enorme affare della gestione dei rifugiati e dei migranti. Abbiamo chiesto alla nostra Valentina Furlanetto, abbiamo deciso di riproporvi questo servizio già andato in onda in effetto giorno, abbiamo chiesto alla nostra Valentina Furlanetto di raccontarci in cosa consiste questo business e perché i personaggi che ne parlano nelle intercettazioni ritengono che sia veramente un affare e renda così tanto. Sentiamo. Tu sai quanto ci guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno. Così al telefono Salvatore Buzzi, braccio imprenditoriale di Massimo Carminati. D'altra parte, il bottino è alto. Nel 2013, per accogliere i migranti sbarcati nelle nostre coste, l'Italia ha speso 1,8 milioni di euro al giorno. Di questa cifra al migrante spettano le briciole. All'incirca 2,50 euro al giorno, il resto va all'ente che gestisce i centri di accoglienza. Guadagnare con i migranti in fondo è facile. Una volta vinta la gara d'appalto, basta riempire all'inverosimile i centri. E a volte non c'è neppure gara. Come nel 2008, ha scritto Claudio Gatti sul Sole 24 Ore del 3 dicembre, quando la corsia preferenziale creata ad Angelo Chiodazzo per ottenere l'appalto da 1 milione di euro per il CARA di Policoro arrivò dal via libera del prefetto Mario Morcone, già allora capo dipartimento immigrazione del Ministero dell'Interno, il quale però ai nostri microfoni smentisce nettamente. E la vicenda del 2008 non c'entra assolutamente niente con le vicende di cui stiamo parlando, che si sono svolte a Roma e che mi vedono totalmente estraneo. Una vicenda archiviata in istruttoria. Si trattava semplicemente di trovare posto a 120 migranti e dette la disponibilità un'associazione che già gestiva un centro CAR, quello di Bari. È sicuramente un settore appetibile, no? Lei ha mai avuto sentore di questa appetibilità? Su questo non c'è dubbio. I CARA sono il vero affare dell'accoglienza perché i richiedenti asilo rimangono per mesi, anni, negli 11 CARA d'Italia. E più rimangono e più sono soldi. Quello di Mineo, vicino Catania, è il CARA più grande d'Europa. Avrebbe 2.000 posti letto, ma tiene 4.600 persone che fruttano il consorzio calatino Terre d'Accoglienza 4.774.000 euro al mese, fanno 50 milioni di euro all'anno. Dopo la chiusura della Fiat di Termini Imerese, il CARA di Mineo è la prima azienda della Sicilia. Esperto del presidente del CDA, del Consorzio Calatino Terre d'Accoglienza, è niente meno che Luca Odevine, ex vice capo di gabinetto del sindaco Veltroni e al tavolo coordinamento nazionale gestione flussi al Ministero dell'Interno, arrestato nell'inchiesta Mafia Capitale perché, secondo le intercettazioni, sarebbe stato al soldo di Carminati. In generale, comunque, le connessioni fra i CARA e gli ambienti vicini al Ministero dell'Interno sono più di una. Dopo lo scandalo delle docce antiscabbia, ad esempio, a gestire il CIE di Lampedusa per le misericordie, è stato chiamato Lorenzo Montana, che ha una parentela ingombrante. Sua figlia è infatti sposata con Alessandro Alfano, fratello del ministro dell'Interno. A gestire il CARA di Mineo è stato per anni Giuseppe Castiglione, ex presidente della provincia di Catania, uomo forte in Sicilia di Angelino Alfano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiudere, come sempre, in queste puntate tra Natale e Capodanno, le storie di sport dell'anno. Dalla settimana prossima andremo sulle storie dell'anno successivo, cioè che cosa dobbiamo aspettarci per questo 2015, ce ne sono molte di interessanti. Intanto il nostro Dario Ricci ci porta a parlare di tennis. Adesso gli manca solo l'oro olimpico, che inseguirà i giochi di Rio de Janeiro 2016 alla veneranda età di 35 anni. Sì, perché il 2014 di Roger Federer, mito del tennis mondiale, 17 tornei dello Slam vinti in carriera, si è chiuso con la conquista dell'insalatiera più prestigiosa dello sport, quella Coppa Davis che era sempre sfuggita a Re Roger e alla sua Svizzera. Impresa riuscita invece nel novembre scorso a Lille, in casa di una Francia che ha provato a mandare in corto la sublime racchetta di Federer scegliendo come superficie la terra battuta, mai troppo amata dal campione di Basilea. Ma i transalpini non avevano fatto i conti con l'altro svizzero, Stan Wawrinka, che è stato il vero trascinatore del team rossocrociato dopo una stagione da protagonista che l'ha portato al numero 4 del mondo. Insomma, per una volta Ray Roger ha dovuto dire grazie al suo vassallo, sensazione nuova che deve avergli fatto piacere come il sollevare al cielo quella magica insalatiera. This is good. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Effetto Giorno, i ringraziamenti Carmelo Lauricella in regia, Laura Fagin in assistenza e in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre che come avete sentito collabora attivamente anche a queste puntate di Natale. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Ci risentiamo lunedì, puntuali alle 13:15.